No, non è bello, dai. Io non so dove andavo quando ero ragazzo, a Portoferro c'era una spiaggetta dove dovevi attraversare tutta la spiaggia. Passavi la spiaggia dei nudisti e dopo quella dei nudisti c'era questa spiaggetta che solitamente non ci andava nessuno, ci stavano al massimo due persone. E ci siamo messi io con la mia ragazza. A un certo punto avevamo anche il bambino, ci avevamo a Maurizio, mio nipote, che era piccolino. Stavamo prendendo le pattelle. A un certo punto arriva questa coppia. Lui grande e lei una ragazzina. Si mettono, spostano l'asciugamano l'orso, mettono il loro e si mettono a fare davanti a tutti. E gli ho detto cosa? Gli ho detto scusate, ma c'è anche un bambino, oltre che c'era l'asciugamano l'orso lì, c'è anche un bambino, ma non vi rendete conto? Hanno preso, hanno detto ma come hanno preso, si sono alzati i russi e sono andati verso la pinetta. Ma forse hanno sbagliato, credevano fosse zona nudisti, scambisti, boh. Comunque già il bambino se ne frega, se soprattutto se più se ne frega i nudisti, il problema è degli adulti. No, il campo dei nudisti era molto prima, poi attraversavi, salivi sulla torretta, scendevi giù e c'era questa spiaggetta e ci stavano giusto due persone in mezzo alle luci era. Vabbè, magari volevano fare scambi di coppia, sai quelli, quel gaggio che vemi, non ti nandi. Un'altra volta sempre a Portoferro siamo andati a mangiare in pinetta, la roba che c'era la stanza dalla mattina, siamo andati a mangiarcela in pinetta, e abbiamo trovato un negro con una ragazzina, facendo zigzag. Cioè lui era, c'era lo sportello della macchina aperto, lei era sdraiata con le gambe fuori e lui sopra, si vedeva proprio tutto in pieno. Ma ragazzina quanto, scusa? Una ragazzina biondo avrà avuto penso 18 anni, lui era grandetto, lui avrà avuto minimo 45 anni, 50 anni. Ah sì, cosa ho visto? Un piccolo anomalo. Si tratta bene, capito? Tartufon. Ma questa ragazzina magari vogliono provare il trosepice dei negri. Asco, a quell'età fanno esperienze, vogliono capire il tartufon. Cosa avevo 18 anni, dai, 17-18 anni avrò avuto. E c'è la mia moglie che era scandalizzata, brutto porco che non è. Certo, se sai che c'è gente, cioè gente che condivide la spiaggia, non sta bene, non sta bene. Io l'ho fatto in mare, ma a largo, non da battagliare. No, infatti, sarebbe un reato, proprio, cioè, solo che se non li beccano in flagrante, è un casino, dai. Poi magari all'epoca non c'erano i cellulari, quindi non potevi documentare. Ma infatti, poi non è che era visibile, il corpo era sott'acqua, era coperto dall'acqua, non è che ci vedeva niente. Non dico nel nero e di quell'altra coppia di Abramitti. Cappa. Luca non è rientrato, stava stampando il pesce in 3D. Ma non ho visto quello che ho filmato che hanno fatto via Pascoli, di quelli che stavano zompando la strada? No, non ho capito il termine, zompando. Facendo l'amore. In via Pascoli c'è tematica, quella che vende case, roba del genere, no? Lì seduta nel coso del marmo del negozio e lui sopra. E li hanno filmati, facendo proprio filmati li hanno fatti. Ma in pieno giorno? Sì, sembra di giorno, ma sono due tussi, ci sono buzzi vari. Mamma mia, magari sono tutte e due ai DS Moniti. Aspetta che prendo il telefono, perché mi hanno chiamato il telefono di casa, non vorrei che fosse una persona che desidera. Fai. Vediamo un po'. Hola. Prova. 1, 2, 3, prova. Perché mi va negativo? Boh. io sono andato a prendere l'acqua, dai, che avevo sette, acqua fresca. Ah, perché mi chiama al cellulare, se non mi trovo lì mi chiama al telefono di casa, capito? Invece io non ho risposto né uno né all'altro, perché il cellulare era in carica, il telefono di casa non mi risulta bisardo, quindi mi ha mandato il messaggio. No, non ho capito chi era, ma forse non l'hai detto. No, preferisco non dirlo. Ah, già nel caldo. Nel caldo colpisce ancora. Certo, è giusto. Finché si può, bisogna approfittarne. Vabbè, è certo che sì. Aia. Vabbè, roba di passaggio, Inferic. Meglio. Bene, non c'è nessun altro. Hai capito già comunque del discorso che ho fatto prima. Nonostante sappia che la 27 ormai è alla frutta, mi balena sempre in mente quella storia del 3009 con la scheda del 6009, quello moderno, mi. Ah, io lo so che del 3009 mi ho venuto l'apparecchio e mi è rimasto un microfono, però ora dico l'apparecchio, ce l'avevo due di microfono, me ne è rimasto uno originale, Superstar c'è scritto. Ah, Superstar. No, qua c'è scritto solo Star, è quello diverso che si premia al contrario, no? È presente? No, anche il mio c'è scritto solo Star, stavo sbagliando lì. Ah, è quello lì? Esatto, rimane piccoletto, bellino, ha una forma bella dinamica, piccolina, non troppo grande. Eia, va bene, sono senza parole, non entra nessuno, dobbiamo inventarci qualcosa. Guarda, io ho trovato un gioco su internet che si chiama Acchiappa il microfono, ma è troppo forte. Devi fare la gara per chi la acchiappa prima, deve cantare, devi cantare, si manda all'inizio del brano e tu devi continuare, no? Se calci tutto te lo fa valere come punto. Aspetta, chi è entrato? Chi ha parlato assieme a Gianni? Ha ripreso qualcuno, ma avete parlato in due? Io ho detto passate i dolci, almeno la gente arriva. Un uomo inviato dall'ex. Ciao Natali, come va? Grave, come voleva. Dice, è intervenuto Fede. Oggi non devo fare la scorpia, tanto per cambiare. Ti ho avuto paura che perché sempre parliamo in due, già. Ho detto, con noi qua, siccome c'è caldo, siamo tappati a casa. Io per adesso mi sta abbassando la ventola da soffitto qua nel salone. D'altronde sono in boxer, in mutande, fra un po' mi levo pure quelli. Tanto che si vede, c'è lì. Mia mamma è pure drumida, ecco, ho lasciato la in camera sua col ventilatore dal caldo. Già sarei e puoi dormire almeno. Io non capisco nulla. Natale, si sente la TV più di te, addirittura. Ciao Natale. Ciao Gio. Stamattina come mi ha chiamato la moglie, sono andato a prendere il bagno a Quartamona, come ne sono tornato. E sicuramente quando ha chiamato non ci ho sentito perché ero a farmi il bagno. Ehi, vabbè, già me l'ha detto mia moglie. Come va? Dolori come sono? Dolori brutti sono, via. Sono ancora a dolori. Che dire era? Io mi sono dovuto mettere l'asino lì per passarmi nella gamba, perché se no non mi passava. Ci avevo Marco questa lombosciatalgia, ma roba marabutto, non si poteva né sedere né nulla. È brutto quando non puoi muoverti, brutto. Io vabbè poche volte, una volta un po' il nervo sciatico si era un po' infiammato, non so, però poca roba, di quello non ne soffro molto. A me la cervicale che mi distrugge, tra capogiri, poi tutto compromesso qua, il collo è un macello già, anche in macchina se mi devo girare proprio tutto da una parte e tutta dall'altra, c'è meno mobilità del collo, un casino qua. Oh yeah. Un bel vascello, vabbè, e cosa vuoi fare? Purtroppo quando diventi grande c'è tutti gli acciacchi. La clavicciaia e carrogna, è vero, arriva piano piano, però arriva un malighinzo, poi ne arriva un altro, poi ne arriva un altro. Come ci siamo? Anzi, per me, io sono il più giovane qua, per me ancora ne dovrò patire di roba, per carità. Oh, non so più, sai che ho abbandonato il caffè in casa? Cioè il caffè lo sto prendendo solo e non sempre quando esco fuori a fare spese, commissioni, svago così. Però a casa abbiamo eliminato anche il decaffeinato, cioè non eliminato volontariamente, non ce n'è più venuta voglia del caffè. E non è per il caldo, perché noi se vogliamo ce lo prepariamo o ce lo beviamo freddo. Capito, caffè freddo, preparato, messo in frigo, in una bottiglietta o nelle tazzine e bevuto freddo, allora è buono. Io lo faccio con il latte così, facciamo caffè e latte, e lo mettiamo in fresco, amo come mia zia. Ma ragazzo lo facevo, adesso non lo sto facendo, però il caffè lo prendo anche la notte io, dopo cena. No, io ho un calo, un periodo che me ne un po' sceso il caffè. E vabbè, capita, poi ti ritorna magari la voglia, eccetera. Natale, puoi riprendere? No, sto in ascolto, che mi fanno male quei dolori lì. Ero in ascolto, mi stavo ascoltando anche poco fa. E che non ce la fai neanche a parlare. Voglia, a confusione, ma con le pastiglie non stava facendo più effetto, Natale. E una volta fanno effetto, una volta non ne fanno. Ti sto dicendo cazzoggi, ma fulminato. Ma io posso immaginare. Io lo sennò stamattina con i dolori nella gamba. Non potevo, manco quando mi alzavo, che l'ho seduto, dovevo riattivare tutto dal movimento. Oh Natali, io speravo che ti avessero dato roba migliore, come terapia anche dal dolore, no? Si può dire cosa stai prendendo? Allora, come ti cazzeggiamo? È Feralgan. Ma è perché io prendo la cardiaspirina che non posso prendere tutto. Cosa non piace? E allora? Ma se 6 volte non fanno effetto, e Giorgio ha detto che è normale. E se non fanno effetto, di danni di dolori. Gesù, come sono arrivato a questo giro, sono stato sfortunato, mi devono fare un altro intervento, Marco. Beh, se è necessario, però io speravo appunto che purtroppo, come hai detto tu, con la cardiaspirina più di tanto non puoi prendere, perché se no ce ne sarebbe stata roba buona, come ti dicevo io, idrocodone, che in America lo chiamano Vicodin, oppure l'ossicodone, quella è roba buona, che i dolori non ne senti più, però sai cos'è, i medici di qua anche, sempre loro per tutelarsi il proprio sedere, non si prendono la responsabilità di dare roba più forte, o non sia che uno ne abusi, capito? Però sempre per pararsi loro di sedere, non gliene frega che poi uno soffra. A me l'altro giorno mi è passato il dolore e mi è venuto un bruciore di stomaco, con tutto avevo che avevo preso il gas protettore, avevo mangiato e tutto. Ah, pure il cardio, anche la mamma lo prende, proprio in associazione a un farmaco, l'ansoprazolo, sì, mio zio prendeva l'omeprazolo, poi è risultato allergico, devi vedere, diventava tutto a bolle, quindi l'ha smesso subito, l'ha smesso perché è pericoloso, allergia, invece mamma prende l'ansoprazolo. Anche io prendo quello, però io mangio pure prima di prendere l'acido dolorifico, perché così ti fa una specie di patina nello stomaco e ti protegge, capito? La roba da mangiare ti protegge dagli acidi. E invece mi ha fatto bruciare di stomaco, ho detto, cazzo, per passare l'anno se mi giunta l'asso. E allora subito latte e mi è passato. Eia, anche io usavo il trucchetto del latte anni fa, quando avevo un po' di bruciore, che fa quella specie di sostanza ricottosa, fa da tampone, mi. Sì, si mette nelle pareti dello stomaco e si fa da tampone, è una protezione. Allora, una volta ho visto questa ragazza, io ero in pescheria, stavo lavorando, questa ragazza che si piegava, ho detto, cosa c'hai, male ti senti? che sto come a morire, mi sto bruciando come se avessi il fuoco, vai, prenditi un litro di latte e bevitelo. Allora, sì, prenditi un litro di latte e bevitelo, glielo dico io alla casa che te l'ho detto io di prima. L'ha preso, gliel'ho aperto, se l'ha bevuto. Oh Gianni mio, sei un santo, ti mi ha detto, mi ha fatto bene subito. Cioè non lo sapevo io, non lo sapevo. Vabbè, non c'è nessuno, ci si vuoi dici. Adesso lo sto parlando. Con muro ti fanno parlare, è un canale di morti questo. Vabbè, siamo zombie, non morti da qualità. Anche tu, non siamo morti del tutto, siamo zombie. Che cazzo, ma che non venti da nessuno, mai. Cazzo, oggi ho trovato così come ho acceso. E vi stavo ascoltando, anche qua. Me ne sono uscito dal letto a sedermi qua. Ah, vado a voi, mi boso nel divano. A chi vi pare di seguo meglio, qua. Non so più cosa fare, che santa voltare. E Natalia, sì, quando ci fanno l'operazione poi già sei meglio, dai. Non ti preoccupare che il dolore poi passa del tutto. Dio ti intendia. Vedrai che superi, non c'è problema. Vedrai che a settembre, a metà settembre ce lo farò l'intervento. E cosa ne so? È dentro verso settembre. Prima devo fare il pre-ricovero e poi mi guarderanno il ricovero, no? Come al solito. Insomma, non vuoi rimasciare a respirare poi tutto in una volta. Sì. E perché questo cazzo di roba maligna ha toccato la vescica, capito là? E quindi mi devono ricostruire la vescica. Lo so, maledetto. E vabbè. Interessante che poi vada tutto bene, Natale, che già di là futti. Io so che esistendi, però è triste aspettare così. Quando c'è il dolore è brutto che lo devi aspettare. Io ho messo qualche cosa, già lo sai, che ha già detto a lui, me l'ho fatto fare per il ricovero e poi mi hanno detto che non mi ricoveravano perché io ero di riserva. Cassero il primo che sono andato, lo mangiarono, il primo, mi hanno fatto le visite per primo, tutte perché hanno fatto diverse visite, elettrocardiogramma, raggi, ghiscio, ghidasso, e mi stanno in bocca all'ultimo. Però se c'era qualche incostato l'hanno fatto fare prima lui di me. E infatti. Sono entrato e mi aveva chiamato mamma. A me lo stesso, mi ha messo in lista d'attesa questo qui. Ah, bel demo. Già mi chiamarono ieri. Oggi mi ha arrivato la cosa, la gastroscopia mi hanno fatto. E hanno fatto diversi prelievi di coso per farli analizzare. Non mi sono capitato di nulla. No. Non ti ha fatto venire voler vomitare. Nulla. Mi hanno fatto cazzo una iniezione di coso, di sedativo. Mi hanno sedato e non mi sono accorto di nulla. Hanno fatto visto che hanno voluto e boh. Ah, sono dormito. Sedativo ti fanno. Non mi hanno dormito proprio, però mi hanno fatto una bella siringata di qualche cosa che faccia dormire. Ho capito, ci hanno sedato il corpo, va. Vabbè, meglio così, anche lì. Io la tengo quella. L'anestesia perché non ce la faccio più. Già mi hanno visto che era un gancio lì. E appetito ne hai? Sì, a mangiare già mangio. Già ce l'ho l'appetito, solo che, mamma mia. Non c'è niente. Meglio la morte. L'importante è che ci sia l'appetito, allora ti tira su. Se non mangi è brutto, quando mangi ti tira su, ti tiene in forma, là. Anche se senti i dolori. E vabbè dai, vi devo lasciare che è venuta gente, ci sentiamo più tardi. Va bene, ciao ciao. Avanti Marco. Ciao Natalino, dai, abbi pazienza, stringi i denti, già risolveranno la cosa. E quindi, caro Gianni, Luca non ha più ripreso, si è perso sulla via di Damasco. Luca. E Luca doveva andare a fare una commissione, non so se è andato. Sì, magari ne ha approfittato, poi messaggi mi pare non ne ha mandato, credo. E io non sono, c'è l'altro WhatsApp, lo mollo per giorni, sto giorni e giorni che non apro i messaggi di WhatsApp. Poi li guardo, sì, roba futile così, insomma. Però guarda. Vabbè. Che caldo all'arco, non si può stare qua, c'è da morire. Guarda, la verità, qua forse il cappotto sta aiutando, perché da quando c'è il cappotto è non molto, ma un tantino più visibile. E guarda che ho solo il ventilatore da soffitto. Certo, da caldo stare con la spalliera del divano, sono poggiato da caldo quello, però per il resto. Poi non abbiamo messo nulla in clima, il clima portatile ce l'abbiamo tutto staccato, ancora chiuso nella busta, quello lo piazziamo solo in caso di eccezionali emergenze, non siamo abituati al clima, capito già, anche in macchina devo stare molto attento al clima, per esempio ieri come stavo pulendo la macchina sopra con la cera, come rientro in macchina attacco il clima, ed ero sudato addosso, mi stava ammazzando, quei pochi secondi ho sentito ghiacciarsi, ho detto no, spengo tutto, me ne torno con i vetri aperti perché sennò mi ammazza. No, io faccio un altro climatizzatore, anche se consumi un trono, che arriva la luce alle stelle, ogni volta 2-0 e passa, basta che lo attacchi una mezz'oretta per ripescare l'ambiente e poi basta. Ma oggi non è attaccato, la verità, L'altro giorno già l'ha attaccato, ma ha preso subito e si è appigliato le tite e c'è un cerume nelle orecchie, quando sono andato a pulire gli esci tutto il cerume. Cioè, cazzo. Quindi fa bene una cosa, fa bene l'altra. Lì due ore mi sono giunti dal climatizzatore, sicuramente. Cappa. Cosa volevo dire? I condizionatori di roba, non mi ricordo. E cosa invece? È più entrato Carlo? Cosa? Ho detto Carlo è più entrato. Io non l'ho più sentito, boh. Magari ci ascolta, non lo so. Come è andato in ferie, boh. Vabbè che sono io che non sto entrando, Cioè non sta entrando quasi nessuno. Poca roba, quindi magari lui accende, non viene nessuno. Magari ce l'hai in macchina, accende, non vieni su, infatti non fa più a portarlo in macchina, non esiste proprio. E vabbè. No, io lo lascio, me la butti nulla. Quando io voglio l'attacco, se c'è gente è bene, se lo pazienza, non arriva. Se vado a porta buona mi faccio di ex, mi metto di fronte al mare e mi faccio di ex. Anche. A me piaceva molto Porto Torres davanti a casa di Sandro, dove c'è l'ancora, quello anche solo per ascoltare, ma anche per fare di ex, è eccezionale quello, e poi perché è anche un po' sopraelevato, non sul mare, è un bijou quel punto, certo se si va sotto il sole no, per carità. Anche se va la chiesa di Balai, è bello come posto, il parcheggio che c'è di fronte alla chiesa di Balai, poi mettevo lì, facevo di ex, facevamo anche le gare con i cigliati CB di Porto Torres, facevamo le gare che arrivava più forte dei posti. Ma Balai lontana? E allora? Ecco sì, anche quello è pianeggiante, è sopraelevato rispetto al livello del mare, è un po' pianeggiante, però una cosa non ho capito, io quando arrivo in quel punto, che sto parlando con Sassari come che fosse una zona d'ombra, mi si attenuano un bel po' i segnali, nonostante sia pianeggiante, e l'hai mai notato? Ma lì arrivavo Santiago a Sassari, poi se mi volevo da lì 9, 9, 5, sì è vero, e i segnali un po' più bassi c'erano, sì. Poi non, è strano perché appunto non è c'è montagnette, colline, è pianeggiante, però ho notato questa cosa qui. Non so se sia il terreno, ma non so cosa pensare, fatto sta che come fosse una zona quasi d'ombra, cioè rispetto all'altezza che ha e al fatto che sia abbastanza pianeggiante, vabbè. E adesso c'è quella collina che la chiamano la casetta di Heidi, che c'è la casetta in punta. Ah, ma quella che si vede anche dalla rotonda? Esatto. Ma quella per caso era la villetta di tanti anni fa, di quello sequestrato, come si chiamava quel tizio? Porca miseria, non mi viene. Mamma lo sapeva il nome. Pupo Troffa, sta dicendo. Bravo, Pupo Troffa. Quella è, no? Quella che intendo io. Non lo so se sia sua, non lo so. Bisogna che chieda alla nipote, che la conosco. Ehi, sei inteso eredi, lui sarà, presumo sia morto ormai. Eredi, eccetera. Ecco, lì già è un bel punto, mi sa, c'è una stazione radio sulla collinetta e col mare vicino, vai in bijou. Allora, lì mi dico tu, guarda, lì è una buona, ma anche l'uomo su quadrato, quando c'era la casa di Affrattamà, si portava l'antenna di capo e parlava con tutti, ci metteva un antennino, con un ricordo se era buona, cosa era, e parlava con tutti. Sì, è bello, il mare fa da specchio, è un bijou. Se poi hai qualche watt in più, meglio ancora. Allora, ma io watt non ne uso più. Cosa devi già fare? Lo vedi su, con chi li usi? No, io, vabbè, prima c'era Antonio, no, lo copiavo appena. Lui, presumo, mi copiasse basso, avevo aiutato un po'. Poi me l'avevo dimenticato, attaccato, l'ho staccato poco fa. E adesso sono con 4 watt. K. No, ma più che altro era per testarlo, per testare il moto ondulatorio dell'antenna, capito? Ehi, ehi, ehi, vabbè, io sto entrando molte volte, c'è poco, non c'è nessuno, allora quando sono 23 che sono sicuro trovo sempre Gio Maria e attore, attore squalo, e mi faccio chiacchierata con loro. Ah, sono 23, eia. Sì, perché a parte questo, il 12, vabbè, io non sto ascoltando, però sul 12 il poco che rimane acceso, che carrello, non ho più sentito un'anima. Ogni tanto, guarda, di notte tardi sentivo Chiodo Ruginito che parlava con quelli che io non sento, tipo Isola Rossa o Thierry. Non li sento proprio, sento solo Chiodo che arriva bene. E sul 16 in banda laterale. Allora ecco, a me la banda laterale già non mi piace, c'è Tyson che sta seguendo una mosca tutta la sera, uscire, gli dà un fastidio, o se no se vanno dove c'è la roba da mangiare in sua, voi così in cassa. Mamma mia, che buona l'acqua gasata fresca che fa, fa aria. Cosa va? No, nulla, dicevo, buona l'acqua gasata fresca e che fa aria. A me piace solo la San Martino della Sarcia, altra acqua non è bella. No, io, guarda, io proprio quella non la posso vedere, perché è troppo ricca di sali, sembrano sali, sali inglesi, la sento salata, non mi piace. Preferisco quelle più neutre. Però io preferisco la San Martino, è monaca a fare la menta. Se ci metti la San Martino ti rendi conto la differenza tra l'altra acqua minerale e la San Martino, ti rendi conto proprio, la menta è buonissima con la San Martino. La menta, caspita, adesso devo vedere se ne abbiamo ancora. In estate mi piaceva l'acqua con la menta oppure latte e menta, quello che al bar chiamano tropical, mi pare, latte e menta. Io ci metto l'acqua gasata ed è buonissima, con l'acqua gasata è buonissima e ci metto anche il ghiaccio dentro. Sì, sì, sì, anche a mamma piaceva la menta. Sciroppo di menta, acqua e se l'acqua non è freddissima ci aggiungi ghiaccio e boh. Però poi gli ultimi anni certe volte compravamo la menta, rimaneva 2-3 anni senza usarla e allora si buttava. Anzi, infatti dubito che ce ne sia rimasta, dubito. Non so nemmeno se abbia una scadenza, perché sembra di quelle cose che durano in eterno la menta. Qua non c'è il pericolo che rimanga. Qua io la bevo proprio, la verità. Mi piace troppo, quando c'ho sette le faccio. Che caldo, mamma mia, c'è un caldo da morire, ho voglia di prendere aria, di andare a Piazza di nuovo, perché ho preso caldo stamattina, sono tornato verso mezzogiorno e mezzo così, e poi mi sono fatto la doccia, sono uscito dalla doccia e stavo già sudando. Sì, sì, esatto. e poi il tempo è bello. Mi sabato, tra sabato e domenica è luna piena, mi pare. Bello, mi di notte, ti trovi una dama di compagnia, ti fai un'uscita a Platamona, ti imboschi in qualche bei team. E io stamattina già ce l'avevo la dama. Bene, bene. Se no solo non ci vado, non mi piace. Andare solo al mare per me è come si guarda al mare, si bilanciava il guardone. Eh no, io certe volte no, io vado solo perché per disintossicarmi da qua, da casa, dai parenti, bello, voglio stare solo con me stesso, bello, mi strampo in acqua. Per me sarei sempre in acqua se non fosse che ti vengono tutte le dita, hai visto come diventano i polpastrelli. E se uguale a me, io sono un pesce, lo stesso io, a me prendere sole non piace, mi piace stare in acqua. Però mi abbronzo anche in acqua, peggio di peggio. Quando sto in acqua mi abbronzo male la schiena, il collo. Mi bisticheggio con me. E altro che fa l'effetto lente l'acqua lì, e quindi dove becca la pelle te la arrostisce ben bene, sì. Poi mi piace sempre andare con la maschera, vedere il fondale a me già. Maschera a pinne, e anche sulla maschera avevo preso quell'accessorio per mettere la piccola GoPro dei poveri, no? E io non ho la GoPro, c'è una videocamerina piccola con la custodia subacquea. Certo, non sono mari tropicali, però ho qualcosina ripida. Vabbè, certo. Io, Marco, non mi fido più con l'operazione che ho fatto alle gambe. L'altro giorno, adesso sarà per l'acqua fredda, che cosa? Mi sono tuffato al ghiero, ho fatto due bracciate e a me piace anche nuotare. E di colpo mi è venuto questo crampo forte alla cuscia, ma un dolore da morire. Ma eri in acqua? E allora mi sono tuffato con la roba ghiacciata e praticamente mi è venuto un crampo e sono dovuto uscire perché mi faceva talmente male che zoppicavo. Lo fa meralgia, come si chiama? Quando sei accaldato e becchi gli aveva fatto a mamma, dice, lei l'ha descritto come un dolore che avrebbe preferito la morte. Immagina quanto può far male un muscolo che si contrae, o un nervo, o tutte e due, quello che è. Io prima mi bagno naturalmente i polsi dietro la nuca, i polsi, e poi mi tuffo, non sto ad aspettare perché poi ti schizzano. A me la cosa più odiosa che c'è quando mi schizzano, non mi piace proprio per nulla, è un gioco proprio tremendo. E quello che hai detto è molto molto utile, lo faccio anch'io. Se entri in acqua già le caviglie hanno i piedi, li bagni, poi bagni i polsi, bagni la nuca, in modo che centri, cioè cominci già a abituarti, cioè il corpo non si trova di botto nell'acqua magari fredda tipo l'alghero, no? Però lo abitui piano piano, cioè, non pianissimo, basta un po' bagnarsi nuca, polsi, insomma già il corpo reagisce, capito? Ma quando trovi certi che gli giorni di alghero li vedi accaldati a morte, magari che stavano giocando a pallone, magari sudati, e si tuffano nell'acqua di alghero e poi ti trovi a fondo o a galla svenuti, non si fa così. Il cambio di temperatura del corpo fa male, ci sa. Qui era c'è certa accortezza, comunque hanno detto che il fatto che dopo mangiato devi aspettare 3 ore è tutta una cazzata, che puoi anche entrare subito, questa dottore ha detto che puoi entrare anche subito. L'interessante è che tu ti bagni i polsi e fai come faccio io dopo che hai mangiato e riabito la temperatura del tuo corpo. Sì, o mangiare anche in acqua. Quello che fa male è lo sbalzo, è lo sbalzo di temperatura, perché se per esempio quando sei accaldato che ti tuffi nel mare freddo o gelato, c'è una vasocostrizione immediata, quindi il cuore può avere anche dei discompensi e i malori ci sono in quel modo lì, insomma, facendo quelle cose lì. Si può anche mangiare in acqua, poi esci, vabbè, e rimani fuori, insomma. che io mangiavo le cozze in acqua, le ostriche, diciamo per cuocerlo subacqueo, le prendevo, le aprivo lì, la buccia la lasciavo scendere, tanto la buccia poi fa parte della sabbia, di pezzi di sgretole, e mi mangiavo l'ostrica o la pantella di quelle grandi da fondare. E ogni tanto le vedi su YouTube, su TikTok, quelle ragazze di solito sono russe, canadesi, comunque nordiche, che si fanno il bagno nel ghiaccio. Cioè tu c'è il lago ghiacciato, loro fanno un buco, si spogliano, cioè vabbè, per YouTube si lasciano reggiseno, mutande, e si tuffano nell'acqua ghiacciata, quella sì che acqua è ghiacciata. Mamma mia, adesso è terrificante però. Sì, no, io seguivo questa coppia che gira in camper e una volta sono capitato in questo posto dove c'era l'acqua congelata proprio, e si hanno fatto il bagno, ma sono usciti tutti zitti. Ti ricordi il canale di questa coppia? Perché vabbè, io ogni tanto qualcosa guardavo, c'è gente anche che ha avuto un po' brutte esperienze in Congo, gente ostile, che ti faceva segnacci, che quasi ti bloccava il camion, ti chiedeva soldi. Per carità, certi paesi sono veramente pericolosi. Ma questi vivono proprio in camper, girano e lavorano su internet, guadagnano da internet, fanno bracciali, fanno queste cose qua, spediscono anche, capito? No, gli si danno da fare, sono ragazzi che si danno da fare, praticamente poi c'hanno anche due gatti nel camper, e niente, ti fanno uscire liberi. Gigione De Meggi. E chi è rientrato avanti? Gigione De Meggi. Luca, sei tu? Ehi, ti abbiamo chiamato disperatamente. Sono andato, ho portato il cane. Ho detto a Gianni, si chiama Gigione De Meggi che cambia. Sì, è lui. Lo invidiano e li odiano quei due ragazzi. Fanno bene. Girano molto, poi sono organizzati, lavorano su internet, quindi hanno anche dei guadagni buoni. Però come fanno tutti, mica ti vengono a dire fai questo e questo e fai la vita che facciamo noi, mica te ne dicono, non sono scemi. Vabbè, comunque c'erano anche i truppi loro, hanno dovuto portare il camper per un mese dal meccanico, meno male che avevano una macchina, hanno preso a noleggio, sennò quella stava lì a figli. L'hai visto, tutta l'aria condizionata, nel buio, tutto nuovo, immaginate le entrate che hanno. E perché quei due con la coppia lo stesso, il mio viaggio a Napoli, anche quei due stanno girando di brutto. Ma io ho trovato, là, quello che dicevo io era Steps Over Extra, questi praticamente abitano il campo e stanno facendo il giro del mondo e si sono trovati in situazioni anche terribili, tipo impantanati in questa specie di guadi, ma cose che io morirei già di paura. Allora, il canale Steps Over Extra risulta? E uno con la barba e una che è la moglie con gli occhiali. Poi c'è anche un'altra signora che gira in camper, che però è un po' più pratica, non mi piace, chissà. È grande di età, c'aveva penso sulla settantina d'anni. Ma non sarà camperato i tre nomadi? Quello io non so come si chiama, gli giovani di Minci che me lo ricordo. Però questa signora fa uncinetto, fa lavori, eccetera, e poi quella di Agusila se ne sta in camper. No, sai perché te lo dico? Allora, c'è questa famiglia che marito, moglie e figlio. E lo stesso girano in camper, vanno però spesso zona Marocco, Coso, Spagna, no? Quella zona lì. E lei è grandetta, ha un bel fisico. Però lei c'ha anche un canale OnlyFans, cioè io ho visto anche le zozzerie, che credo che siano scambisti, capito? Tutti impalliditi, state correndo a confessarvi. Tutto sono io poco, Ma c'è anche quel ragazzo, non so se lo segui, che c'è dietro in vanna. Ma ero giovane, boh, non so se ha 30 anni, forse è meno. Che basso. E vive in van, da solo, viaggia dappertutto. Caspita, fa il video, però da solo, proprio da solo. Solo già. Caspita, ti devi occupare di tutto tu. Vediamo se fanno ancora video. Sì, un giorno fa, Camperado, i tre nomadi. Questi sono abbastanza bricconcelli, Poi c'è un altro, non so se lo segui, che vive in un camper. Però quello è qua in Italia comunque. È separato, ha spiegato un po' la sua situazione. È separato, e siccome deve dare mantenimento alla moglie, perché c'è anche, non so se uno o due bambini, la sua scelta è stata di andare a vivere in un camper, perché non riesce se no a dare mantenimento alla famiglia, capito? Perché lui è dovuto andare via di casa, allora ha dovuto scegliersi la sua vita e fa il video. Aveva una cinquantina d'anni, qualcosa in più. Insomma, dai. È bello il camper, certo, un po' impegnativo, cioè non è solo che guidi e boh, devi fare manutenzione, coso. Già ho visto certi, quando ti si rompe qualcosa è un incubo, a seconda di dove sei, di cos'è un incubo. È anche una spesa, a parte che non è vita, viverci, non è, cioè viverci perché ti è costretto un conto, ma viverci per scelta è dura, soprattutto se siete in due, più cani, gatti, no, così no, caspita. Finché fai l'estate, allora ti fai tutta l'estate, allora sì, oppure un fine settimana, ok, anche d'inverno, bello, un fine settimana, ma viverci proprio, no, quello no, caspita. Viverci, a meno che uno non abbia molto spirito d'avventura. Comunque sì, cani e gatti sono una seccatura, perché se scappano, se fanno danno, peccato, perché un animale da compagnia già è bello. Quei due ragazzi, quella coppia, hanno visto, cioè, due gatti, e giustamente quando aprono la porta loro escono, vanno, girano, e cosa ne sai in questi posti nuovi, acciappi una lince, acciappi, perché loro vanno proprio fuori. In Italia, sì, l'hanno girata in lungo e largo, ma vanno fuori, scherzi, trovi in un bosco, cazzo, ti trovi una lince o un cane selvatico, veramente ti rivolge pure. Sì, un rischio. Va bene, e Gianni si è sentato? Sta guardando io un po', perché tu gli hai messo la cuccia nelle orecchie adesso. E lui subito ha acceso il computer a guardare io un po', Tardone e quant'altro. per quella coppia lì. Sono sardi anche miei, e sono di Cagliari. Almeno lui si sente lontano meglio che di Cagliari dall'accento. E non si fanno mancare niente. È vero, c'è gente che lo fa per un periodo, poi però diciamo torna alla realtà, perché comunque è una vita, cioè, caspita, chiuso in quei pochi metri, magari diluviando per settimane, molto a tempo, freddo, e ti serve l'acqua calda, devi gestire i pannelli solari, non è una vita. Quegli altri invece che avevo nominato prima, che vanno proprio in tutta Africa, cosa, ovunque, America, poi certe zone sono veramente pericolose, cioè non esci vivo, e infatti bisogna dare molta fortuna. Ed è così. E a te dove piacerebbe andare, se dovessi fare un viaggio, camper o non camper, comunque, dove andresti? A me piacerebbe una bella crociera. Guarda, girare in posti freddi e vedere ghiaccio, montagne, neve, no, sinceramente non attira, magari nel Trentino, vedi, in quelle baite, fare un'escursione lì, mangiare la roba del posto, però starci molto no, a me piace il mare, non mi dà montagna, a me tende a bondo. Vabbè, finché vai in estate anche in Nord Europa, Svezia, Norvegia, quei posti là, tanto c'è un caldo boia anche lì poi in estate, però certo se sono luoghi di mare meglio. anche l'inverno, anche l'inverno preferisco il mare, la brezza marina, l'odore dell'iodio, tutte, ma in montagna non me ne fotte proprio nulla. Posso andarci un paio di giorni, giusto a sentire, respirare l'aria di montagna, queste cose, vedere la neve, ma no, non mi attira proprio. Piace andare magari, vedi, a pescare nei fiumi, nei grandi laghi, nei grandi fiumi, trote, salmone, ecco, ah sì, ci andrei, poi accendo un bel focello con la tua, con la cosa, con la compagnia, naturalmente, non da soli, da solo, cosa vai, e mangiare appunto queste robe qua, salmoni, passare una settimana, capito, ma non di più, non di più. Guarda, sono belli molto la zona degli Appalachi, negli Stati Uniti, dove ci sono quei bei laghi, fiumi, natura quasi, quasi incontaminata. Non so se hai visto il video che non ho messo l'altro giorno, quei ragazzi che erano in quel lago, sembrava il mare, l'hai visto? Qua sempre l'acqua, vini, qua si cristallino canto blu, sempre l'acqua. Però dal video che hanno fatto era bello, caspita. Sì, ma sai cos'è? Noi siamo abituati ai laghetti che abbiamo noi, no? Queste pozzanghere che abbiamo in Sardegna, ma certi laghi, tu vedi acqua perdita doppia, non vedi l'orizzonte, cioè non vedi. Sembra mare da quanto sono grandi. Grandi quanto, che ne so io, quanto 3-4 regioni d'Italia, forse quanto mezza Italia, tutto lago. Io ho fatto lago di Iseo, lago di Garda, lago di Iseo è una cosa bellissima, stupenda, dal pontile, dal pontile, la strada stessa, la gente che lanciava qualche pesca, recupero, e poi vai al centro del lago, c'è un'isoletta dove ci sono, c'è il bar, comunque, allora, veramente guarda, la Iseo è spettacolare. Io Gianni, sei rientrato? No, magari impegnato al telefono. Anche il po' è bello, ci sono andato sia a pesca che a girarlo. Il po', il taro, vabbè, dove ero io lì, nell'Emilia, ho fatto un po' di giri. Tutti i posti belli, a dire che si mangia alla grande poco, porca miseria. E vino, oh yeah. Se vino delle linee, oh yeah, buonanello, e se no la grappa, quelle robe lì, il nocino, fanno molto, liquori molto buoni fanno. Io come Gianni amo la roba dolce, comunque liquori dolci, che te devo dire, vini dolci tipo lambrusco, quella roba lì, la roba secca non mi ci vala. Guarda, quello che potrei tollerare, per esempio il rum, perché il rum è un po' più dolcino rispetto al whisky, al brandy, che sono più secchi. E infatti ti stavo per dire, assaggio l'ambrusco e poi mi dai la risposta, è molto buono l'ambrusco, è molto buono. No, tanto prenditi il coso qua, il moscato qua in questa cantina, poi mi dai la risposta, cazzo sei buono. Così mi trovi sotto il tavolo, ritrovimi con un bicchiere. Ma sorry, perché è dolce, ma ti piacevo, è veramente un po' ghiacciato, bellissimo, buonissimo Marco, buonissimo, però sì, è quello, è un bagnolino, non so se l'hai mai assaggiato. Il bagnolino si chiama, guardalo su internet, oh yeah, se no sono, non è buono me. Che roba è, tipo fragolino, boh? È un liquore. Adesso guardo. Allora, bagnolino, più comunemente in italiano prunella, è un liquore dall'alta gradazione alcolica, ottenuto dall'infusione delle drupe di prugnolo. O prugnolo selvatico, detto anche pruno spino. Cavolo! Aspetta che continuo a leggere, vediamo. Ma come delle bacche sono, sembrano tipo mirtillo, boh. Sì, esatto, sono delle bacche. Loro fanno anche appunto il mirtillo, che è come si assomiglia al nostro, capito? Deve essere buono, sì. Cosa mi ha ricordato? Aspetta, vabbè, sì, poi anche in altre regioni d'Europa lo fanno con cose simili, magari gli danno nomi diversi, è la stessa cosa. Per esempio, credevo il formaggio con i vermi lo facessimo solo noi in Sardegna, perché voi vai a scoprire che a Roma lo fanno lo stesso e c'è un nome romano, e in Puglia c'è un altro nome, cioè alla fine non abbiamo inventato niente, dai. Non so se hai visto, sono passando il video della capra, non so, 600 kg di capra hanno fatto, non mi ricordo che paese era, qua in Sardegna, sono belli quei GR rossi lunghi 4 metri. Cavolo. Perché adesso quando c'è il turismo, queste cose vanno molto, capito? Queste cose vanno molto. C'è il turista, centinaia e centinaia di turisti, allora organizzano queste cose, queste sagre qua, queste robe qua, maialetti, sapre, di tutto, di più, capito? Perché il turista le apprezza queste cose. Gianni sta parlando del tardone. La sorte. Se c'è dormito come sempre, che si dorme per la radio. Le tardone, mature. E dai 60 in su, dai 60 in su, poi soprattutto con le piaghe, le rughe. Oh yeah. Qua c'è il gatto vicino a me, a pancia all'aria, qua sta facendo carezza alla pancia. È bello. Monella. Già ti usiamo da bacchetto a cosa, Natale. Io ho avuto, forse 14 o 15 anni il gatto, ho avuto il cane 18 anni anche. E adesso c'ho questo, anche che era già piccola, non dà fastidio, anzi non, proprio non fa niente, nel senso non sporca, non ha mai rotto niente, proprio niente, mai che abbia rotto una sedia, sai come fanno molti cani che rosicchiano, questa nulla, mai fatto un danno, mai. Noi siamo tutto aperto, se la tua trovi mai ricoricata, o sul divano, poi se ne va nella sedia fuori in terrazza, in quelle sedie di plastica, dove ci sono i cuscini, sui boccaivi. Sì, allora quei cani che... a certi cani viene questa cosiddetta sindrome dell'abbandono, che quando esci a fare commissioni o per cavoli tuoi, loro sono solo in casa e sono di testa, cominciano a rosicchiare roba, strappare i cuscini. Certi si sono trovati la camera mezza devastata per questi cani, anche piccoli, fanno un casino, perché si sentono come abbandonati, come lasciati da parte, allora si scatenano, abbaiano, fanno casino. No, è che questa... mai fatto danno. No, non lasciamo la trovi cucata sul bolivano, o in terrazzo. In terrazzo, se sei coricato per terra, li devi mettere l'asciugamano in terra, perché se no in terra non si curica, è proprio in terra così non si curica. Ed è anche una cosa bella. Se li metti asciugamano, aspetta che tu li metti asciugamano, poi quando si aspetta d'inverno, che c'è il sole, che fa piacere, allora aspetta che li metti asciugamano dove c'è il sole, capito? Aia. Certo, il gatto è più autonomo e... perché a me di svegliarmi presto, magari dopo una notte delle mie devastanti, che mi alzo muro certe mattine, non portare il cane, vabbè, passi di giorno, di sera, ma la mattina presto è deleterio per me. Io ho visto gente già andare in bagno a fare la pipì all'alba, gira manco il sole c'è, e li vedi già in giro portando il cane, ma che palle, guarda. Qua c'è una che lo scende, mi sembra alle 4 del mattino, lo scende alle 4 del mattino, poi mette a mangiare a dei gatti, cazzo non basta quelli che ci sono, lei continua a mettere a mangiare, allora tutti questi gatti giù che l'aspettano a mettere da mangiare, alle 4 di manzano, aveva tasso un gruppo, ma quando vai a casa lo scendo io, per esempio lo scendo alle 8 la mattina, 3 volte lo scendo tutto il giorno. Luca, se sono troppi ti presta la carabina, aria compressa col cannocchiale, fai l'effetto Trump. No, ancora servirebbero sempre che cosa, per i gabbiani, cazzo, la fanno un casino la mattina, gabbiani cornacchi, perché c'è, insomma, la mangiare c'è la merletta o chi li butta il pane, un casino, i gabbiani sono una cosa incredibile. Ma anche di notte li senti fare un abulotto, proprio nel cuore della notte, come che si inseguono a mezz'aria. Vabbè. Sono Enza, mi è venuta al caldo. Aveva ragione Luca, ti sei drumito Gianni. E allora, drumito mi sono, la sonnolenza mi ha preso dal caldo. Stavo parlando di un po' di tutto, di animali, di cani, di gatti, di camperisti, di scambisti, eccetera. Perdone, ieri mi sono mangiato un'anguria e mezzo e un melone. Buono, qualcosa di fresco ci sta bene, magari un gelato adesso c'è, così lo do anche a mamma il gelato, riesci a vedere che ore sono, che l'orologio è mezzo rotto, l'ennesimo, 6:15, adesso lo tolgo, lo lascio 5 minuti fuori, anche 10, così è più morbido, perché appena lo togli le coppette sono di marmo, non ne sia manco il filo del cucchiaio. Anch'io faccio così, lo lascio la bollire un po' e poi lo mangio, no a questa però un po' più molle, dai. Io l'ho mangiato ieri e oggi, ieri addirittura a pranzo, non ho mangiato nulla, ho mangiato solo frutta. Marco, mica Gianni c'è la tessera per comprare il calippo, se ti interessa. Il calippo, il calippo, è tanto tempo che non lo mangio. C'è una canzone che dice, ti piace calippo? Ti piace calippo, Emilia te. Ma esiste ancora il calippo? Il ghiacciolo dico, non il calippone. Ma non lo so, ma quella del Dorado che fa, è vero, il Dorado fa solo ottimi gelati. Ma come dice quelli dei camper, quella coppia ragazzi, che stanno mettendo il calippo nel... No, i polaretti nel freezer. Lascia quanto arrivi forte, saturo arrivi, come sei così forte, saturo, saturo. Aspetta che abbasso il macchinino, guarda così già. Così va benissimo, così va bene. E è un bel saturo, ora non so Marco perché è lontanata, ma io ti sento proprio troppo forte. Io ho abbassato il macchinino, c'ho il macchinino a 1,5, 1,8. E i polaretti non ti piacciono già? Sì, sì, i ghiaccioli normali, quelli che ci sono da Italy, ci sono tutte quante, tutti i gusti, io mi prendo quelli. C'è il bosco, c'è la menta, c'è il limone, ci sono un bel po' di gusti. E io preferisco i ghiaccioli che ha il cornetto, anche i gelati con cioccolato e panna. Preferisco il ghiacciolo, soprattutto quello all'arancio. Non si è uscito in radio già. Ma c'è un mangiato, fino che mangio dove un altro. Lui, tanto mi piace di gelati, io sono ghiotto di gelati, ma di tutti i cibi di gelato, Io vado in cucina da preparare questo gelato. Riprendete voi. Ehi, Alu. Ma l'ha andato, sì. Mi ha mandato un messaggio di avvisarmi, ma non mi ha mai avvisato, però. Perché non ci sono andato. Sì, certo che ti ha avvisato, ti ho scritto. Ah, io te l'ho scritto anche. Aspetta che te lo leggo. Mi ha scritto quello Eia, l'ultimo messaggio tuo è quello. Eia, eccetera, eccetera. E basta. L'ultimo tuo messaggio è quello che te lo puoi leggere anche tu. Magari l'hai mandata qualcun altro, a me non me l'hai mandato. A me l'unico messaggio è quello lì. Sono io che ti ho mandato un altro messaggio dopo. Contatto del fatto, ero giù col cane. La risposta era affermativa. Ma io non avevo capito, non mi ha detto io o eccetera eccetera, ma non avevo capito, infatti ho detto avvisami, caparrogero, e dopo scendo. E intanto ce l'hai, no? Eia. Adesso vado a bere però, un bel bicchierone di acqua bella fresca, bella ghiacciata. Voglia di acqua gasata però, porca miseria, è buona ma non ti dissetta, è buona al momento. Guarda. Ti ricordi?